scorso raggio, mi sveglio nei miei occhi frammenti di un sogno che svendo abdicando il mio tempo al guadagno. Sono ritardo, maledetti fautori di un tempio, cosa ma crescendo il bisogno. L'anima non si vede ma esce dal corpo e come fumo nel vento, a tratti ritorno, a tratto dal mondo mi perdo nell'aria di una sera senza data, senza data. Treme il soffitto, il mio letto, una porta che scorre attraverso l'esterno, una mano racchiude me stesso ed il sogno è la chiave di tutto, è pensiero epicentro di un sole che splende all'interno, ingabbiato nel buio dell'ufficiale giorno, ingabbiato nel buio dell'ufficiale giorno, dell'ufficiale giorno, giorno. Devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero, nero. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. Invece devo assaporare ogni traguardo come componente nero che non voglio e che non posso. E che non voglio, e che non posso, e che non voglio, è che non posso. Hanno detto la colpa è del tempo, hanno detto il disagio è un bisogno, un accordo per l'essere in voga dell'altro al tuo fianco, così che all'esterno rimanga un automa, un servo che compri vendendo ogni sua ora al giorno, che compri vendendo ogni sua ora al giorno, che compri vendendo, che compri vendendo. E questi sono i DDM qui a Radio Onda Rossa 22:49, 87.9 MHz di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa 25 o'clock con i DDM. Niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. È solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. È solo chiacchiere e distintivo. Insomma, abbiamo cominciato un po' a cannone. Con i DDM diversi dal mucchio. Did you get perché ci sono venuti a ritrovare un'altra volta? E hanno portato il loro di mucchio qui a Radio Onda Rossa. Sì, perdonateci magari per la non alta fedeltà sicuramente del set acustico che ci stanno preparando i DM. Loro sono bravissimi, sono i tecnici del suono che purtroppo sopperiscono alle nostre carenze egregiamente. Quindi bella DDM. Quindi continuiamo per un po' a sentirci DDM dal vivo qui con il set acustico. Sì, stiamo cercando di trasformare gli studi della radio in una fumosa e birrosa fucina. Sì, insomma, una taverna chiusa, un posto appunto con le luci soffuse, e cercheremo di ricreare questa atmosfera. Mimmo ci dirà pure che cosa eseguiranno, lo farà come se fosse proprio il concerto. E quindi quando sono pronti di sì, noi ricominciamo a proporvi il loro set acustico. La per la liberazione del giorno, nessuna gloria. Mezzanotte, la lupetra guarda normali, non so corpo scorre vodka. La tasca destra quando è a corto di specie si allunga e lui sprofonda. Tra i due inizia il turno, senza colazione partirà il nuovo giorno. Senza colazione. Lui che non sfrutta la forma, l'unica certezza dell'esistenza è l'ombra che svanisce all'alba. La gioia come foglia morta che non decolla, la gioia. Pioveranno incudini sulle sponde agli angoli per coprire i gemiti dei nascenti pargoli, arruolati e impavidi, i nascenti pargoli, arruolati e impavidi. La vita perde senso se nostra, su quella degli altri noi la certezza. Ipocrita condanna di una stirpe che scorda, ipocrita vendetta se chi deve non tocca. Mentre ritaglia amore usa cornici di odio, dal passato i colori per disegnare nuove ore. Un ritratto sfumato, un cattivo sorriso, uno stentato giuoco per sentirsi ascoltato. Mezzogiorno, Alberto lo guarda i normali, nel suo corpo scorre vodka. Due tubi nel collo, la causa del falso contatto di un nastro, ma esame psicologico gli da addosso. E senza nessuna gloria finirà l'ultimo giorno,

rimane innominato, mentre la stagione ispira lui rimane disgustato. In file a 10 tutte ad un solo orario, dall'attacco allo stacco di un posto di lavoro ingrato, sudato. Mentre la stagione chiama, lui rimane innominato, mentre la stagione ispira, lui rimane disgustato. In file a 10 tutto era un solo orario, dall'attacco allo stacco di un posto di lavoro ingrato, sudato. Ore che si frantumano come paesaggi che passano, e nel cammino si uniscono e per natura diventano la dittatura dell'animo. Com'è che ora non suonano, ore che si frantumano come paesaggi che passano, e nel cammino si uniscono e per natura diventano la dittatura dell'animo. Com'è che ora non suonano, ore che si frantumano. Che passano e nel cammino si uniscono e per natura diventano la dittatura dell'animo. Com'è che ora non suonano, ore che si frantumano come paesaggi che passano, e nel cammino si uniscono e per natura diventano la dittatura dell'animo. Com'è che ora non suonano, ore che si frantumano. E qui andiamo a fondere i vapori di sudore qui con i DDM e ci andiamo ad ascoltare anche dal disco, mentre ci prepariamo per il prossimo pezzo. La tasca destra quando è corto di spicci si allunga e lui sprofonda. Tra due inizia il turno, senza colazione, partirà il nuovo giorno, senza colazione. Lui che non sfrutta la forma, l'unica certezza dell'esistenza, l'ombra che svanisce all'alba. La gioia come foglia morta che non decolla, la gioia. Pargoli, arruolati e impavidi, i nascenti pargoli, arruolati e impavidi, i nascenti pargoli. La vita perde senso se è nostra, su quella degli altri in noi la certezza. Ipocrita condanna di una stirpe che scorda, ipocrita vendetta, se chi deve non tocca. Mentre ritagli amore usa cornici di odio, dal passato i colori per disegnare nuove ore. Un ritratto sfumato, un cattivo sorriso, uno stentato giuoco per sentirsi ascoltato. Mezzogiorno, al vetro lo guardano i normali, nel suo corpo scorre vodka. Dubbi nel collo, la causa, il falso contatto di un nastro, ma l'esame non si conosce qui d'addosso. E senza nessuna gloria finirà l'ultimo giorno, senza nessuna gloria finirà l'ultimo giorno. Non sfrutta la forma, l'unica certezza dell'esistenza, l'ombra che svanisce all'alba. La gioia come foglia morta che non decolla, la gioia. Pargoli, arruolati e impavidi, i nascenti pargoli, arruolati e impavidi, i nascenti pargoli. cosa è nostra, su quella degli altri in noi la certezza. Ipocrita condanna di una stirpe che scorda, ipocrita vendetta se chi deve non tocca. Mentre l'Italia amore usa cornici di odio, dal passato di colori per disegnare nuove ore. Ritratto sfumato, un cattivo sorriso, uno stentato gioco per sentirsi ascoltato. Adesso facciamo un pezzo un po' più raccolto, si chiama Anticonformismo. L'altro era innominato, era benvenuto al nostro chitarrista Stefano. E adesso Anticonformismo. Perché stufo delle svastiche sul muro, della gente che ha confuso la giustizia con l'abuso, la milizia con lo Stato e la paura del reato, con l'insegnamento laico. E dice sempre sono stato, perché niente ha conquistato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto, delle cose che ha pensato. E dice sempre sono stato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto, delle cose che ha pensato. E dice sempre sono stato, perché niente ha conquistato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto. Perché stufo delle svastiche sul muro, della gente che ha confuso lo straniero con l'intruso, la milizia con lo Stato e la paura del reato, con l'insegnamento laico e dice sempre sono stato, perché niente è conquistato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto, delle cose che ha pensato, e dice sempre sono stato, perché niente è conquistato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto, e dice sempre sono stato, perché niente è conquistato, perché niente lui è restato, delle cose che ha voluto. Perché non cambia il giorno, anticonformismo inutile, perché peggiori il giorno. E rendi idroponica la mia libertà, e rendi idroponica la mia libertà. Come on! E state ascoltando il set acustico dei DDM, questa è Radio Onda Rossa 87.9 e questa è 25 o'clock. Scosti momenti con il suo cronometrarli. Di tutti i nostri morti ammazzati, io sto per strada col mio scrollato, tu in Parlamento rubando una fiata, raccontami in cosa siamo diversi, quando mi cerchi per giocare versi, e farò il pizzo alle puttane, per farle fottere liberamente, farle guadagnare il giusto, e farle spendere a più non posso, e tu ragazzo che non hai mangiato, ricorda poi sempre fare il bagno, io non ho ancora digerito, l'ultima volta che tutti ho tradito, la luna ha fatto un patto col sole, la luna ha fatto un patto col sole, tocca alternarlo, quando troppe creme renderanno nulla la sua funzione, quando cercherò chi è tra solo, lenti scure giocai. La prossima canzone è una canzone dedicata a Carlo Giuliani, è una canzone soave, lo dico quasi con rammarico, perché vorrebbe, diciamo, centrare la vita, la luce della vita e non la morte che ne segue, quindi dico sempre con rammarico, però è stata fatta, diciamo, proprio così, per inquadrare la luce, senza rumore. Yeah. affogato in silenzio nel sangue. La mia testa che scoppia, ho la tempia che scoppia. Di vita per mostrarvi chi sono, chi sono. O morire ammazzato. Nelle mani mie qualcosa che non c'entra con la scuola. Quattro frecce la mia auto, era un lunedì di sera. Lai, lai, la, lai, lai, la, lai, lai, la, la. Un grasso, pochi capelli, una canottiera, la fia sotto al braccio, carnagione chiara. Sembravano tentacoli e li muoveva in senso orario. Un grasso, pochi capelli, una canottiera, la fia sotto al braccio, carnagione chiara. Sembravano tentacoli e li muoveva in senso orario. Sembrano tentacoli e li muoveva in senso orario. Sembrano tentacoli e li muoveva in senso orario. Chiama quando vuoi se ti serve un favore. Chiama quando vuoi se ti serve un favore. L'espressione di un bambino di quasi 40 anni, portafogli con le foto delle figlie minorenni. Lai, lai, la, lai, lai, la, lai, lai, la, la. Partigiano, è questo benessere per cui sei morto. Partigiano, è questo benessere per cui sei morto. Partigiano, è questo benessere per cui sei morto. Partigiano, è questo il benessere per cui sei morto. Partigiano, è questo benessere per cui sei morto. Che ci andiamo ad ascoltare? DDM. Adesso la prossima canzone è Gabbia di Vetro, che era nome, sì, è la nome. È il nome del disco che sta per uscire, diciamo. Gabbia di Vetro, quindi. A voi. Passato mi vedi, sono ciò che sei stato e che sempre avresti voluto. Dormi illudendo la rosa dei tempi e divengono giorni te conti all'uscita dei sogni di libertà. Dormi illudendo la rosa dei tempi e divengono sogni da conti all'uscita dei giorni di libertà. Dormi illudendo la rosa dei tempi e divengono giorni, te conti all'uscita dei sogni di libertà. Spento le luci, non tremi. Se ripensi al passato, mi vedi, sono ciò che sei stato e che sempre avresti voluto. Dormi, non vedi che hanno spento le luci, tu credi che saranno gentili domani, che sapranno capire l'assenza dei mari e dei prati. Dormi, illudendo la rosa dei tempi, e divengono giorni tuoi conti all'uscita dei sogni di libertà. Dormi, illudendo la rosa dei tempi, e divengono sogni tuoi conti all'uscita dei giorni di libertà. Dormi, illudendo la rosa dei tempi, e divengono giorni tuoi conti all'uscita dei sogni di libertà. No, vabbè, spero che si riesca a sentire anche in radio, si riesca a percepire l'emozione che ci abbiamo qui noi con i DDM. Credo che sia pronto l'ultima cosa, quindi sì, probabilmente. E poi andiamo a chiudere il set acustico, anche perché diciamo dopo entra, com'è l'ora quella dei bambini? Come si chiama? La fascia protetta, quindi. Adesso chiudiamo con una cover di D'André. Preghiera in gennaio. Lascia che sia ferito, Signore, il suo sentiero. Quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare. Quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandole la fronte, venite, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Venite in paradiso, paradiso. Un padre che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che voi torni tre volte per oltraggio, calciato dalla terra, mostrano il coraggio. E fate che giunga a voi, fate che voi torni tre volte per oltraggio, calciato dalla terra, mostrano il coraggio, il coraggio. Ricominciamo. Sbagliato. No, dillo a tutti. Questa perché era la cover di D'André con 2D, quindi siccome l'ha detta male, quindi vi siete emozionati, beh. Con preghiera in gennaio sarebbe bene un bel bestemmione qua, però scherzo. Preghiera in gennaio, fascia protetta, dico dopo. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandole la fronte, venite, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Venite in paradiso, venite in paradiso. Fate che giunga a voi con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni, premorti per oltraggio, che al cielo della terra mostrano il coraggio. E fate che giunga a voi, fate che a voi ritorni, premorti per oltraggio, che al cielo della terra mostrano il coraggio, il coraggio. Che in cielo e mezzo santi Dio fra le sue braccia soffocherà di morte di quella labbra smorte che la dell'ignoranza preferirò la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura, paura. Nessuno potrà farti notare gli errori di tutti che puoi e vuoi salvare. E ascolta la sua voce che ormai canta il vento, di Dio misericordia vedrai, sarà contento. E ascolta la sua voce che ormai canta il vento, di Dio misericordia vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, sarai contento, sarai contento.